ci trattiene, ci ha detto chiude tutto e ce ne rientra a casa. Peccato per il tempo, se oggi fosse stata una bella giornata. Due anni fa io ho fatto delle immagini a Porto Torres, ero in bicicletta, me lo stavo raccontando ad Antonio, bisogna di 18 gradi, una bellissima giocata, era in tutto, leggera, proprio tutto il pezzo di ballo, era una giornata stupenda, non poteva far luce, così la gente andava in giro, magari si fermava a fare la colazione, l'aperitivo, ecco, invece è tempaccio. Cioè. Lo so, vabbè, è così, cosa vuoi fare? Vabbè. Avanti Mirko, attacchi il fuoco, già devi arrostire. Ma la cosa strana là, adesso c'è tempo brutto, pioggia, tutto quanto, il problema ce l'ho basso. Quando per dire c'è una bella giornata me ne sale a 7-8, adesso è meno di 5, mai successo. Cosa che mi ha disturbato mia moglie, ho già detto Roberto? Ho detto la cosa strana, l'hai visto oggi tutto il tempaccio, umidità e coso, ce l'ho basso il QRM, meno di 5, raramente proprio succede per me, perché è sempre meglio, almeno 6-7, certe volte arriva anche 8. Oggi è basso il QRM. Fate aggiunto. Guarda, io ho QRM a S1 S2, no, più S1 che S2. Benissimo. Poco fa ho sentito i colpi della pioggia, però ho messo l'NB ed è sparita. Ho messo il filtro sullo 430 ed è sparita. Stamattina c'era anche un po' di propagazione, ho acceso un attimino, c'erano russi, non lo so dove erano, paesi dell'est, dai. Ok, che è arrivato qua? Antonio c'è, cioè, buco. Tanto vai tu. Gaffa, no, io c'ho normale QRM, non ne ho problemi. Anzi, senza la pioggia è anche meglio. Ma quanto ce l'hai tu, Antonio? 2, Santiago 2. Ah, vabbè, qua forse io sono una zona un po' maledetta, non lo so. Sempre alto, mico il 9,40, invece quello ne tiene meno di colpi, è molto più basso. Beh, 9,40 è molto più selettivo. Al 4,40 non so, 4,30 è lo stesso, molto più selettivo il 4,40. QRM è poco, la ricezione è molto, molto più corposa, come dice il trasmettitore, è superiore al 4,40, molto più meccanico. Va bene, Mirko quindi è andato a farsi il sciugo e niente, riprendi roba. Vediamo se Gianfranco ha finito di fare gli impianti elettrici, le luci di Natale. Gianfranco, ci sei? Sì, ci sono sempre. Ciao Claudio, buongiorno. No, ne sto facendo un'altra perché ne ho trovato un'altra che era nascosta dietro e quindi la sto normalizzando in modo che almeno è tutto a spinozzi, tutto, non dico in ordine perché con tanti fili l'ordine è impossibile, però almeno insomma se devi staccare qualcosa non stai lì a svizzare mammut, stacca le prese e sei a cavallo, cioè le spinozzi, e ci colleghi qualcosa d'altro, sono tutte intercambiabili, tutte uguali. Tutto lì, riprendi Claudio, qua è tutto Eva. Allora prendi Roberto, sto facendo il letto. Il letto al cane o il letto a te? Ho letto a me. Ah, così è. Vai alto. Gappa. Però Santiago 2 non è alto il QRM. No, non è tanto Santiago 2 o 3, l'importante è che poi riceva l'antenna, perché io per dire ce l'ho alto il QRM, però tiro fuori i segnali bassi, per dire magari altri li sentono sì, io li sento 8 e riesco a tirarli fuori. Il problema è se c'hai il QRM a 1 e non ricevi niente, quello è il problema. No, riceve, tranquillo. No, ma io non ho tanto, il 440 è rumoroso, il 140 ancora di più, quando c'avevo il 140 era un abisso, era. C'avevo qua un'altra radio io, che era più silenzioso del 140. Il 440 è buona come ricezione, niente da dire, però se ti metti un'altra radio di quelle superiori che ho è una subianetta. Io te ti faccio perdere una scommessa, ma non te la faccio perdere io, no? Te la faccio perdere io e gli altri due amici che tu conosci, che conoscono bene le radio. Io ti do uno dei 430, lo sai che ne ho due, no? E tu fai la comparazione, al 440 ce lo mangia, proprio lo puoi tenere spento, tu fai la comparazione 430-940, mi dai la risposta, e mi dai la risposta. Mi dici, ma non è possibile, tu mi dai la risposta, ma con i filtri però è, il 430 quello che c'ha tutti i filtri, ce li hanno tutti e due i filtri, sia SSB che AM, e poi mi dai la risposta, mi dici, che avevi ragione, è una cosa allucinante, lì c'è il trasmettitore come il 430 della serie del 430, 940, eccetera, eccetera. non ce n'è per nessuno. Ma non lo dico io, lo dicono chi veramente conosce bene la radio. Io no, già lo so, niente da dire. L'unico problema è che 430 c'ha poche memorie, tu dici non me la futti nuda, però solo quello è l'unico limite. A me la memoria me ne frega niente, io con la sintonia continua, no, non devo stare a memorizzare niente. È una comodità, capito, ma è un HF, quindi le frequenze le conosco e con la sintonia continua. Se le vuoi mettere, ne ha 8 solo di memorie, le metti le 8 memorie che ti interessano di più, ma quelle tipo canale 10, canale 23, canale 20, canale 40, canale 45, cioè quelle che ti, ma io ce l'ho a sintonia continua, ma non ce n'è per nessuno, e te lo dico perché il 940 l'ho avuto, 430 ce l'ho 10 anni, e se ho fatto fuori tutti i 440 che ho avuto, mi sono tenuto 2 430, tu lo sai che condizioni sono le mie, no? E sono da vetrina, soprattutto quest'ultimo che è arrivato da poco, che gli ha messo il filtro Fabrizio, è una cosa spettacolare, ma ricezione da paura. Se io te ti faccio ascoltare in 40 metri, tu accendi 9,40 e poi metti a fianco il 430, mi dici cazzo 9,40 lo tengo spento. Io. Allora, chi c'era? Gianfranco, hai terminato o stai proseguendo? Sto proseguendo. E poi il problema di questa radio è che non ti crea problemi di nulla, mi ti può creare un problema di una spinetta, magari qualche falso contatto per l'usura, eccetera. Ma questo in 10 anni, mai avuto interventi sul VCO come il 440, lo puoi tenere mesi e mesi spento, lo riaccendi, è sempre funzionante. Fallo con il 440, vedi. Mai più in vita mia, cazzo, ne ho avuto una, forse 10-15 di 440, tutti lo stesso problema, tutti lo stesso problema. E vabbè. Avanti, a tu. Infatti mi sa che questo lo vendo e me ne prendo uno di quelli, perché vorrei fare così. Ma fallo, Anto, fallo prima che ti crei problemi, perché intanto te lo dico con molta sincerità, ma da amico te lo dico, il 440 l'unico difetto che ha è quello del VCO. Capito? Quando ti sembra che sia tutto a posto, quello che c'è tu, per carità, è revisionato, la parte del VCO è stata fatta nuovo, prima di dartela è a posto, non crearti problemi. Però con l'andare del tempo quel problema te lo fa, fra 2 anni te lo fa, fra 3 anni, però ti uvadi, non vi so problemi. Te lo dico perché ho toccato con mano io, l'avevo fatto revisionare, capito? Perché l'avevo comprato, purtroppo non era revisionato, uno dei tanti. L'avevo fatto revisionare, dopo 2 anni e mezzo mi ha rifatto lo stesso problema, sono rimasto a piedi. Fortunatamente avevo sempre il 430 che mi copriva, se no non avrei avuto HF, capito? E il problema è nato così, non venuto da là. Guarda, se uno mi fa scambio, che mi dà uno di quelli, io gli do questo e va bene così, capito? Sto cercando qualcuno che faccia lo scambio. Altro. Io ne ho 2, ma ti dico che se tu mi dai quel 440 che io conosco, perché lo conosco molto bene, a darti io il 430 ti dico già di no, perché non ne voglio più proprio 440, capito? Non ne voglio più. Quello tu lo devi vendere, senza cercare di svenderlo, cercare di un prezzo equo, perché chiaramente quella radio non ci vale più di 350 euro. Se trovi chi ti dà 400 euro, prendili, ma sarà molto difficile, e poi ti trovi un 430 che lo paghi 350 euro lo stesso. Non è che lo paghi di manco, assolutamente, capito? No, io, cioè, anche se qualcuno me lo dà a scambio, mi prendo il 430. Se poi lo vogliono comprare, lo vendo e compro quello lì, capito? Puoi fare così, perché scambio e scambio, chi apprezza il 430 chissà come funziona, chi conosce bene il 430 come me, io scambi non ne faccio, nel modo più assoluto, proprio perché ho toccato con mano, ho speso una barca di quattrini per i 440, ma una barca, mi riuscivo un HF nuovo di ultima generazione, perché le ultime volte ho speso 220 la prima, 220 la seconda, 260 la terza volta, 380 ma un mare di soldi ho speso, un mare di soldi, capito? E poi alla fine cosa ho fatto? L'ho venduto a 400 euro, ma dato ad una persona affidata e con tanto di garanzia, nel senso che la radio alla fine era tutta revisionata, tutta a posto. Se lei fa il difetto fra 3 anni, fra 4 anni, a me non me ne ha fatto nulla, l'importante è che ti abbia dato una radio a posto. Però quel difetto la radio lo fa, prima o poi lo fa, non c'è niente da fare. Vai Roberto. Io lo so, a me mi ha fatto tutta un'operazione con la persona che conosciamo, ha cambiato tutto il kit dei condensatori, ha messo roba nuova, speriamo, ce l'ho già da qualche anno, speriamo che non lo faccia mai o che lo faccia il più tardi possibile. Anche se già lo so che la tua è la stessa revisionata, anche quella di Antonio è bellissima, nuova, era di quella persona lì, quindi è tutta revisionata nuova, è bellissima, non c'è niente da dire, però prima o poi, fra 2, 3, 4 anni, il problema ce l'avrete, no, non c'è niente da fare. Ho toccato io con mano per ben 5 volte me l'ha fatto a me, 5 volte, a distanza di 2-3 anni il problema, a distanza di 2-3 anni il problema. L'ultimo che avevo preso addirittura me l'ha fatto dopo un anno e mezzo sono rimasto a piedi e quindi ho usato il 430 e va bene così. E infatti ho detto basta, tolto la mezza ai piedi, l'ultimo che avevo, non ne compareggio più, ho il 430 che non ha niente, ma dico niente, sottolineo niente da invidiare al 440, proprio nulla, nel modo più assoluto, né come ricevitore né come trasmettitore, quindi mi tengo vicino. Vai Antu. Capo, comunque sappiate che se me lo vendo e mi prendo uno di quelli, mi prendo, perché non è che a me mi piace, se hanno problemi poi comincio a incazzarmi, non sai come sono fatto, cioè comincio a incazzarmi, a bestemmiare, se mi attano i colpi di culo al cernaglio. Tu non è tanto bestemmiare, no? Immaginati tu che io stavo parlando la sera io stavo parlando, la mattina come facevo sempre, sono andato a accenderlo, acceso, tutto il display, puntini, ricordati queste parole che ti sto dicendo, proprio accendere la radio e anziché 27.075 la frequenza, vedi tutti i puntini, la radio è andata, è da mettere sotto i ferri, non c'è niente da fare, ma il problema qual è? Che qua non te ne fa nessuno, la devi spedire fuori, ok, e sono 180 euro per cambiare tutta la parte del VCO, riallineare la radio, 20 euro di trasporto andare, 20 euro a tornare, sono 220 euro, tu immaginati che la radio ne vale 350, vedi tu cosa devi fare. Se mi può andare in oramada. No, infatti se trovo qualcheduno o mi faccio scambio o se no prendo e come si dice, mi prendo uno di quelli, perché su 430 ed è migliore. Tanto, guarda, non ti ripeto, a te ha meno problemi, il 430, il C80 e il 140 sono le tre radio migliori di quell'era lì, di quegli anni lì, che ha fatto la TV. Il 440 è nato male, io l'ho comprato nuovo, e l'ho sempre detto a tutti, nuovo, da Mario Notari, da Audiolinea, ok, in Viale Mameli, dopo 8 mesi io sono rimasto a piedi. Fortunatamente la radio era in garanzia, gliel'ho portato, ho detto, ma scusa, la radio accende e no, il display è tutto a puntini. Come? Dammi. Me l'ha fatta passare in garanzia, quando sono andato a ritirare, ho detto, la radio è pronta, vieni a ritirartela, cosa ti va? No, non l'abbiamo fatta passare in garanzia. E che cos'è? Niente, un difettuccio che si è creato. Non mi ha detto niente, con l'andare del tempo, siccome io sono kenwoodiano dal 1987, uso queste radio, ho scoperto qual era il problema del 440, perché oltre a me era successo ad un altro amico, era successo a un radioamatore, e quindi guardando, cercando di capire, avevamo scoperto che il problema era il difetto sulla parte di VCO, capito? Quindi nuova, dopo 8 mesi me l'ha fatto a me. Gappa, così è. Vabbè, io vado a mangiare, ce la risentiamo, ok? Ciao Anto, alle prossime ci riascoltiamo, vai Robè. Io, ciao Anto, già ci sentiamo, dai, alle prossime, buon pranzo, dai. Dopo questa, l'ho preso da quella persona là e la trova fiammante. Fiammante, pure il colore che io l'ho guardata perché con l'alimentatore, cioè c'è l'alimentatore di linea, no? Adesso l'altra che ho è un pochino più il colore, ma perché è invecchiato, però è originale. Ma l'alimentatore di linea, che è originale, il PS50, il colore è preciso identico, il grigio è preciso identico. Ehi, ma ne aveva un'altra con l'altra persona, o sbaglio? Sì, ne aveva un'altra, però l'aveva ratta, non mi ricordo, a Capri l'aveva ratta, a Capri. Questa è quella che ci aveva fatto per lui, ti ricordo, avevamo tolto il filtro per mettere nella mia, e poi si è impegnato, me l'ha trovata, me l'ha fatto, ha fatto un grandissimo lavoro, ma è... Adesso è un allineamento veramente bello, prima c'era la tensione troppo alta, quindi mi ha detto che ha abbassato per la tensione, perché come pigiava la portante andava a 100 watt e poi tornava indietro, adesso è perfetta, adesso è a 20 watt, modulati 40, perfetta come l'altra, veramente molto molto bella, nuova, già l'hai vista. Ehi, adesso c'è qualcuno che vuole entrare, avanti che vuole entrare, c'è qualcuno sotto, non ho capito. E se vuole entrare che entri, e se no esca, Gianfra. No, Gianfranco, ma cosa sta facendo? Ovvero l'albero di Natale? No, Natale è già passato. No, ho sentito, sta adattando delle prese, degli apparati, boh, non lo so, forse c'ha tanti apparati da collegare, non ho capito bene, così va bene. Sono impegnato, riprendo tra 10 minuti per salutarvi. Allora, fa una cosa, riprendila, dai, io Robè ci passiamo un po' in a 525, così se entra qualcuno facciamo due chiacchiere anche lì. Siamo in VHF, Gianfra, ok? Va bene, Italia Sardegna 0, Foxtrot, Foxtrot 10, Italia Sardegna 0, Delta. Sì, sta traslando.